Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Tra pochissimo discuteremo con Stefano Folli, notista politico del Sole 24 Ore, Valentino Parlato, direttore del Manifesto, Luigi Manconi, presidente dell'associazione A Buon Diritto, e, diciamo, esponente, leader storico del Partito Democratico, e Franco Bechis, direttore di Italia Oggi, delle elezioni europee. Sarà un approfondimento, ma un approfondimento per modo di dire, nel senso che siamo ancora in attesa dei dati forse più importanti politicamente, quelli delle amministrative. Stiamo ancora galleggiando nel mare dei commenti generici. Pensate che la stampa internazionale, famosa per la sua precisione chirurgica, dice cose diverse e tutte completamente sbagliate. L'International Herald Tribune dice che la sinistra non è riuscita a fare un grosso guadagno di voti in Europa. Beh, veramente, diciamo, i laburisti in Inghilterra sono diventati il terzo partito. Solo in Italia tiene la sinistra, il Partito Democratico. Insomma, un po', diciamo. E Zapatero è stato superato dai popolari, la socialdemocrazia al minimo storico. Questo è il titolo del New York Times, diciamo, l'International Herald Tribune. Il Wall Street Journal, che è la mia Bibbia personale, un grande giornale, dice che gli europei hanno punito i partiti di governo. Sarkozy va forte, la Merkel va forte, la maggioranza, anche se Berlusconi è in calo, è stato fermato, come dicono oggi i giornali italiani, però la maggioranza di centrodestra italiana è al 51% o giù di lì, no, al 45% giù di lì, insomma non vedo. E il Financial Times dice che la destra, si intende la destra xenofoba, eccetera, tightens grip on Europe, cioè, come dire, impone il suo tallone di ferro sull'Europa. Tutte sciocchezze. Vabbè, a parte l'Olanda, che essendo stata quasi radicalmente islamizzata, ovviamente ha un fenomeno, il secondo partito, Geert Wilders, già era successo con Pim Fortuyn, cioè, è ovvio, no? Ci sono delle reazioni, la gente non desidera essere scontraffatta, scompaginata, resiste un po' l'identità e quindi alcuni votano chi la predica e chi dice di volerla difendere. Insomma, io suggerirei di fare una discussione, però poi i miei ospiti sono tutti menti molto indipendenti, senza troppi luoghi comuni. E partirei dal fatto che per l'Italia si dice quello che si dice, cioè che si dice sempre quando ci sono elezioni proporzionali, asticelle. Allora, Berlusconi non ha fatto la campagna elettorale. Siccome è un po' fuori di testa nelle ultime settimane ed è stato smutandato con tutta quella storia dello scandalo delle ragazzine, ha messo l'asticella del plebiscito sulla sua persona al 40 o al 45%, che è una sua tecnica di marketing, dire noi saremo travolgenti, eccetera. Poi si è ritrovato al 35, adesso giustamente è arrabbiato e furioso. Come si chiama? Franceschini ha fatto il contrario. Ha detto, dobbiamo evitare il tracollo, il 22, il 21, quello sì è un rischio, eccetera. C'è il 26 tutto contento. 26,2. Sì. Ecco, allora, insomma, è tutta una... le cose nelle proporzionali. Per fortuna c'era il quorum del 4%, per cui si sa che Pannella ha avuto un risultato sfolgorante, nessuno potrà mai fare a meno di Pannella, però non entra nel Parlamento europeo, quindi ha perso. E che lo stesso vale per Vendola e per Ferrero, cioè per tre partiti, diciamo, due della sinistra vera e propria, di origine marxista, detta radicale, e l'altro, il partito radicale di Pannella e della Boni. Insomma, sono elezioni, adesso poi vedremo le province, i posti di potere, le cose vere che contano e che determinano poi il vero risultato per quello che riguarda anche il dibattito interno ai partiti. Vedremo se per esempio il Partito Democratico riesce con Penati a fermare Podestà, a tenerlo sotto il... e vedremo poi i risultati locali importanti, eccetera, politici. Bene, elezioni europee, prima domanda: è cominciato il declino di Berlusconi, sì o no? Onorevole Manconi. Decisamente sì, non c'è il minimo dubbio che il governo e la maggioranza restano più che forti, fortissimi addirittura, ma sotto il profilo del leader, ovvero Silvio Berlusconi, siamo in presenza posso dire addirittura di un fallimento. Non dimentichiamo che Silvio Berlusconi è capolista in tutte le circoscrizioni, dunque, come si dice, ci ha messo la faccia, e in questo caso ci ha messo la faccia, il corpo, tutto se stesso, la sua vitalità e il suo declino fisico. Non ha fatto la campagna elettorale, però. Ha fatto una campagna elettorale fortemente condizionata, forse si può dire così, dal suo stesso corpo, cioè da tutto ciò che intorno alla sua vita privata è emerso, legittimamente o meno. Ma soprattutto direi questo, che Silvio Berlusconi aveva una ambizione di significato davvero storico, cioè quel 40%, 41, 42, 43, 44 che in Italia è stato raggiunto solo ed esclusivamente dalla Democrazia Cristiana, se non sbaglio, fino agli inizi degli anni 50. E in questo caso, mentre la Democrazia Cristiana... Però Manconi, chiedo scusa per l'interruzione, adesso non serve più, perché adesso basta avere un 40, un 35, un 38... Basta avere un buon alleato di coalizione, e questa è la differenza tra destra e sinistra, sostanzialmente, che il centrodestra ha un grande capacità di coalizione e il centrosinistra no. Però termino il ragionamento, se posso. Sì. Quello che mi preme dire è che l'ambizione di Berlusconi era concentrata tutta sulla sua persona, questa differenza di quanto accadeva negli anni 50 con la Democrazia Cristiana, cioè la personalizzazione della politica l'ha costretto a giocare tutto su se stesso e addirittura ad ambire a essere il rappresentante della collettività nazionale, diciamo dalla vicenda dei rifiuti di Napoli. Però non è un caudillismo, in America aprile. È così, no? Come? In America è così, i candidati presidente puntano tutto se stessi e vogliono rappresentare l'intera nazione. E in questo caso però il fallimento a mio avviso è notevole, perché ha perso incredibilità. Va bene. E Franco Bechis? Ma io sarei prudente su Berlusconi, perché temo che queste considerazioni le abbiamo fatte tante volte. L'abbiamo dato per morto per in questi 10 anni. Ho sentito sempre dire adesso è finito per sempre. Ecco. Ha perso, ha sicuramente perso Silvio Berlusconi, perché l'attesa io pure era vorrei perdere, però essendo presidente del Consiglio di una maggioranza che è 45. Ha perso lui, non ha perso la sua maggioranza, non ha perso il suo governo, che più o meno mantiene i voti delle politiche. Ha perso, ma ha votato 67%, probabilmente la campagna Noemi ha avuto quell'effetto lì, cioè di non far andare a votare. Non c'era una questione importante per l'elettorato. La campagna Noemi o la crisi, un certo stato dei non rapporti credo, politici? Non credo, credo la campagna, Noemi secondo lei ha avuto un influsso. A pelle, sentendo... Io se fossi stato Berlusconi non avrei lanciato questa idea che la campagna Noemi ha influito. È un bel premio per D'Avanzo e Ezio Mauro, bravi. Può essere, però insomma è un mese che si parlava solo di quello. Ma comunque questo non c'era una questione fondamentale per cui andare a... è anche vero che il popolo di centrodestra, l'elettorato di centrodestra si schiera quando è in gioco qualche cosa che in questo caso non era in gioco. Valentino, quindi... Parlato. Sì, sento poco bene. La domanda è sempre quella: se è cominciato il declino storico di Berlusconi? Guarda, in un quadro dove l'Europa si sposta a destra, Berlusconi ha certamente subito una sconfitta rispetto alle sue aspirazioni, arrivare al 40-41%. Però dare per sconfitto e fatto fuori Berlusconi mi sembra assolutamente esagerato. Berlusconi resta anche per le trasformazioni che ci sono nel popolo italiano. Devo dire che in questa situazione, però, questa sua sconfitta personale, che non è una sconfitta politica del suo partito, secondo me, però cominciano, anche per il successo della Lega, possono cominciare a maturare nel suo schieramento dei rischi di 25 luglio, questo penso. 25 luglio? luglio, quando è una data... il Gran 43, il Gran Consiglio del Fascismo. E Dino Grandi sarebbe naturalmente Gianfranco Fini, o no? Sì, tu l'hai detto. Non lo so. Allora, sentiamo Folli, che è persona equilibrata. Io penso che lui abbia avuto una battuta d'arresto, come ovvio, perché c'era una logica in quel fissare l'asticella al 40%, non tanto per richiamarsi al precedente storico di De Gasperi, ma perché Berlusconi, puntando tutto su se stesso, lì ha ragione Manconi, aveva bisogno di questo 40%, una sorta di plebiscito intorno a sé, per sfuggire ai condizionamenti che gli pone un alleato ingombrante come la Lega. Questo è un punto secondo me importante. Un Berlusconi al 35 con la Lega che va oltre il 10 cambia un po' la natura dell'alleanza. È vero, diciamo, il dato ultimo è un 45% abbondante, che naturalmente è un voto molto consistente per la maggioranza di governo, per il governo, però all'interno di questo 45% le cose si sono un po' spostate. Berlusconi oggi è più debole nel rapporto cruciale con la Lega. Se avesse avuto il 40%, e io penso che fino a un paio di mesi fa lui stava intorno al 40-42%, credo i sondaggi fossero abbastanza verosimili, e poi sono convinto anch'io come Bechis che ci sia stata tutta una l'onda lunga del caso Noemi ricordo, non, senza voler offendere Deborah Rosciani, che non bisogna avere fiducia in tre cose: la borsa, il meteo e i sondaggi. Comunque sia, insomma, il punto di fondo è questo. Fiducia nella borsa da questa radio un po' il punto di fondo è questo. Mi smentisco. Berlusconi mento sapendo di smentire. Stamane si sono sul Libero delle dichiarazioni, delle affermazioni di Berlusconi che mi sembrano molto credibili, no? In cui dice: io ho dovuto tirare la carretta da solo ancora una volta, ho dovuto puntare tutto su me stesso. C'è una debolezza intrinseca, diciamo, di questo grande partito che prende il 35%, e dall'altra parte c'è un partito, la Lega, che invece è solido e determinato, che mette le carte in tavola su tutti i temi con grande determinazione. Sì, prima di tornare dopo l'interruzione pubblicitaria fra qualche minuto a Berlusconi, che certo, insomma, è il tema dominante ovviamente politico, insieme con quello del suo competitore, il Partito Democratico, e la leadership di Franceschini, un breve cenno su una cosa a suo modo importante, anche se abbastanza collaterale. Parlato voi del manifesto, avevate detto, come lei ricorda nel fondo di oggi, ai due partiti, diciamo, della sinistra, avevate detto: fate una rosa di personalità e fate confluire i vostri voti. Sì, siete scissionisti, non vi volete bene, ma potete trovare l'incontro su una lista che non è né dell'uno né dell'altro partito, e entrate nel Parlamento Europeo. Non l'hanno fatto, si sono ritrovati col 3 qualcosa tutti e due senza entrare. Ma che è questo principio di autolesionismo che si è impugnato e non riesce a... È questo, oppure c'è un'insufficienza di cultura politica? Non lo so. Che è? Perché fanno sempre questi errori bestiali? Secondo me, Giuliano, c'è un'insufficienza di orizzonte politico, di vedere le cose in grande e non nel piccolo. E poi ci sono, come sempre, quando c'è una crisi, come dire, i rancori, gli odi interpersonali, tutte queste cose terribili. Fino al punto da non salvarsi, diciamo. Come il teorema dello scorpione, insomma, ti mozzi il fondo con te in mezzo. Spirito di scissione. Sì. Va bene, dopo la pubblicità riprendiamo a discutere, naturalmente con un occhio stavolta al risultato del PD, che è tutt'altro che lusinghiero, sebbene, come sempre nei giochi del proporzionale, l'asticella era più bassa e quindi è stato evitato il crollo. Questo è il titolo, diciamo, giornalistico sul PD, che è andato maluccio. Bene, 800 24 00 24, stiamo parlando delle elezioni europee. Adesso, dopo aver parlato di Berlusconi, parliamo di Franceschini e del PD, che ha preso il 26% e rotti. C'è una dichiarazione del senatore Tonini, da russare per la verità, perché è una dichiarazione che si potrebbe fare dopo qualunque risultato. Praticamente sì, insomma, ci possiamo stare. Ma no. Che vuol dire che il PD ci però può dice stare? Però dice una cosa Tonini. Dice... ci possiamo Foglio stare più in... sofisticato di me riesce a trovare dei significati ricordi in una dichiarazione del simpaticissimo ma perché è un punto importante. Qual è? Che dice? Lui dice ci possiamo stare, però se vediamo che se il PDL sfondava allora, ma il PDL sta retrocedendo e quindi diventa molto più difficile per il Partito Democratico accettare un 26% in un momento in cui il competitore è in arretramento. Questo è un punto. Questo accentua, io devo dire una cosa, pur non essendo un elettore del PDL, come noto, devo dire che, visto che i socialisti francesi sono al 16, con invece Commendi che li tallona o addirittura li supera, Gordon Brown, vabbè, ci ha avuto 92 ministri con la fretta di andarsene per via dello scandalo delle cose, delle spese truccate, sì, e dei porno. E vabbè, ma insomma, però Zapatero è andato male, Gordon Brown è andato male, la Aubry è andata male, la socialdemocrazia è andata male. In questo sfascio, mi pare che lo accennasse prima Valentino Parlato, il PD, insomma, ci può stare. Devo dire, la dichiarazione di Tonini è abbastanza... Che succederà? Diciamo che poi le due coalizioni, quella di maggioranza e quella di opposizione, tengono più, più o meno le loro posizioni. Più o meno le posizioni di un anno fa, se si considera una Pannella e Di Pietro, e Di Pietro dispersi, che raddoppia i voti. Sì, che poi... i voti dispersi. Sì, che... Mettendo insieme le due coalizioni siamo più o meno al livello di un anno fa. Sì, infatti è una noia bestiale questa analisi sul nulla, però insomma, dobbiamo continuare a farla. Allora, vediamo un po', ma che succede però nel Partito Democratico adesso? Niente, che D'Alema conferma la candidatura a Bersani e Franceschini se ne va in autunno, no? Non, dobbiamo aspettare le amministrative. Non sono così sicuro che le cose andranno così, però va detto che è naturale che il sollievo per un mancato pericolo sia più gratificante di un successo mediocre. Dunque, la soddisfazione che circola all'interno del Partito Democratico è semplicemente comprensibile. Credo che ancora una volta, se fosse utile, dovremmo prendere in considerazione il ruolo davvero perverso del sistema mediatico, perché evidentemente in quelle famose asticelle evocate da Ferrara il ruolo giocato dalla stampa e dalla TV è stato determinante. È ovvio che se per mesi si parlava di un Partito Democratico sull'orlo della liquefazione, tenere un 26 e qualcosa di più rappresenta un esito positivo. Io sento il dovere di fare una piccola precisazione. Alla domanda precedente, Berlusconi ha subito una sconfitta, io rispondo inequivocabilmente: l'ha subita ed è particolarmente grave sotto il profilo culturale del senso comune. Dopodiché è del tutto ovvio che ho capito, Manconi, dunque io le faccio una domanda sul PD, è del tutto ovvio che la maggioranza di governo è forte. Come hai capito, io dico come è andato il PD, cioè, Berlusconi ha perso, è un po' facile, ribadisco il concetto: in presenza di un Berlusconi che perde, d'accordo. Il partito no, ma io volentieri accetto, no, ho capito quel benissimo terreno. Rosetta da Gorizia, pronto? Buongiorno, eccoci. Io volevo dire, come mai nessun commentatore politico si è accorto che il partito di Berlusconi si presentava per la prima volta agli italiani dopo la fusione con Alleanza Nazionale? Sì. La Lega Nord è aumentata grazie ai voti fuggitivi e sarà ancora peggio, ritengo, con i risultati delle cosiddette amministrative. La Lega, secondo me, è un partito molto pericoloso per la tenuta dello Stato italiano. Lo sa chi conosce la sua ideologia, ignorata dai giornalisti, dai filosofi politicanti, esempio Cacciari, o da chi abita per esempio a Parigi ma scrive sulla stampa italiana. Vorrei dire altro, ma vi lascio e vi ringrazio. Grazie, grazie. Allarme sul voto della Lega. Ma io trovo che nessun voto di radicalizzazione politica è così allarmante come sembra a tutta prima. L'abbiamo visto, l'Austria ha riassorbito Haider, poveretto, adesso poi è anche morto, ma insomma è un fenomeno politico. L'Olanda ha già visto, cioè, sono cose da capire, da interpretare. Poi la Lega è diversa dagli altri, la Lega sta al governo, c'è un ministro dell'interno in giacca blu, sì, c'ha la pochette verde, ma insomma, e il quale fa una politica davvero ministro dell'interno, in piena solidarietà col capo della polizia. Ma io infatti, per esempio, non sono manco tanto d'accordo con quel che diceva Folli prima, perché questo allarme anche cresce la Lega, condiziona in maniera particolare il centrodestra. I temi della Lega sono quelli del centrodestra, perché sull'immigrazione è un tema comune, il federalismo, che era la cosa che spaventava tanto, è solo l'UDC di Casini e non ha votato contro quella legge, ma è stato probabilmente infatti, il provvedimento non che ha più unito in consenso il Parlamento italiano, e non mi sembra che ci sia questo rischio. Mi spiegava ogni tanto Berlusconi, qualche esponente della Lega un po' coreografico riesce la battuta. Berlusconi era più preoccupato di poi te. Secondo me, se Gerd Lerner continua le sue campagne, la Lega arriverà al 25%. Senti, hai parlato, è d'accordo su questo? Sì, la Lega, ma voglio dire, avremo uno scontro tra Lega e PDL sul referendum prossimo. Sì, certo. Però alla fine questo referendum. Però se non sbaglio, tra i partiti cosiddetti euroscettici, forse sono in errore io, la Lega è l'unico che stia in una coalizione di governo. Sì. Questo può anche essere letto positivamente da Giuliano Ferrara, però indubbiamente costituisce un fattore di instabilità. Tutti gli altri partiti, ripeto se non sbaglio, che hanno posizioni o dichiaratamente di intolleranza etnica o di rifiuto dell'Europa, non sono al governo. Da questo punto di vista la situazione del centrodestra italiana è più delicata, e a mio avviso su questo Folli ha inevitabilmente ragione. L'instabilità cresce. Onorevole Manconi, senza esprimere giudizi di valore, io rilevavo una cosa che a me sembra un fatto, cioè è al governo anche perché è un partito costituzionalizzato molto fortemente dal processo politico degli ultimi 10-15 anni. Bekis non ha torto quando dice: ma che certo volete, che costituzionalizzato, ma non va mica fuori legge, ma nessuno, di maggiore nessuno pensa di metterlo fuori legge. Posso dire una cosa? Anche perché il ministro dell'interno sia attento che ci finisce lei fuori legge. No, il ministro dell'interno. Ma nessuno pensa che la Lega sia assimilabile a una forza xenofoba o roba del genere. Questo non lo pensa, io non lo penso almeno affatto. Lo so, è una forza perfettamente costituzionale. Però è una forza, beh, non dicono è solo una questo, forza politicamente scomoda, ma scherziamo. Ma è Berlusconi che ha sempre pensato al Popolo della Libertà come a un partito che tendenzialmente arriva alla maggioranza assoluta, tendenzialmente, è un signore il quale sa benissimo che gestire il rapporto con la Lega è molto scomodo. Dalla schedatura che mi danno dal call center di Milano c'è un giudizio stupendo di Michelangelo da Milano. Michelangelo? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. No, la mia è soltanto una di vedere la situazione in maniera molto soft, cioè nel senso che secondo me è nella natura di noi italiani un po' fare del bene un po' a tutti, no? Dare a tutti una chance. Esatto, dare a tutti una chance. Allora, questo per fortuna c'è stato lo sbarramento al 4% dal mio punto di vista democratico, ma comunque questa è la mia idea. Lei dice che è stato un voto di gentilezza per sopravvivere. Secondo me sì, e poi soprattutto l'altro po' passavano anche i due partiti comunisti, è vero? Vediamo le amministrative, questo è il punto di quindi tutte le questioni. Chiaro, grazie Michelangelo. Anna Maria dalla provincia di Pisa. Anna Maria. Pronto? Eccoci qui, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Eccoci, parli pure. Mi sembra che i termini politici, mi scusi, dottor Ferrara, non hanno più un senso, perché dire di un partito di opposizione che ha tenuto mi sembra un'incoerenza di terminologia politica. Un partito di opposizione non tiene, se tiene ha perso, perché un partito di opposizione... Vero. Come ha fatto il PD in quest'ultimo periodo, attacca i partiti di governo e quindi o vince o perde. Questa è la mia considerazione. Folli annuisce. Anna Maria, Folli annuisce. Perché annuisce Folli? Ma perché è un po' vero, obiettivamente è un po' vero. Cioè, come si fa a dire che ha tenuto un partito del 26% perché in Europa c'è chi è andato peggio? Ma voglio dire, quando... Quando l'anno scorso era Bekis, no, che faceva il riferimento all'anno scorso, loro hanno avuto il 33% i democratici e Di Pietro ha avuto il 4%, insieme hanno il 37%, adesso hanno il 34% ma con il Partito Democratico al 26% e Di Pietro all'8%, sì. Quindi qui c'è è simmetrico, ragazzi, Pannella era dentro. Ragazzi, sono elezioni sarebbe europee, non contano assolutamente niente. Si mandano dei pupazzi allora a Strasburgo a fare carta. Vabbè, io ci sono stato in Parlamento europeo, è una fabbrica di carta. Siamo qui perché io con questo atto di fiducia nel Parlamento europeo siamo. Ma è vero che si può chiudere qua la testa, si può dire che ha tenuto anche perché c'è stato l'ultimo intervento di Veltroni, l'unico che ha fatto alla vigilia, cattivello forte, quando ha ricordato: io me ne sono andato, i sondaggi erano il 26. D'altra parte la Bonino una volta prese l'8%, persino Prodi prese l'8% con l'asinello, cioè le elezioni europee quelli che in genere non prendono voti prendono un po' di voti. È successo anche a Di Pietro, che ne farà di questi voti secondo voi, Bekis? Contano poco i voti per l'Europa, no, certamente ne ha raccolti. Curiosità, magari è una semplice curiosità, siccome le avevo analizzate matematicamente le campagne elettorali di ciascun leader. Antonio Di Pietro è l'unico dei leader politici che non è mai intervenuto sulle questioni, diciamo, private rosa di Silvio Berlusconi. L'unico. Beh, è intervenuto fatto... in precedenza, definito no, magnaccio. Certamente, eh? Certamente ha parlato del caso Mills, ha fatto la sua campagna su quello, ma ha fatto una campagna elettorale per le europee ed è stato forse l'unico caso, cioè coi vari temi, poi certo ci sono quelli della legalità che sono i suoi grandi temi. Ha messo su anche delle candidature curiose, eterogenee, un perché, po' perché siamo molto tutti, di sinistra. Insomma. Noi siamo tutti democratici, raffinati, snob, eccetera, guadagniamo bene, giornalisti, deputati, ex deputati, eccetera. E noi siamo qui e ci preoccupiamo molto della Lega. Ma perché non ci preoccupiamo di questo Di Pietro, che secondo me è una bestia, diciamo, da demagogia, è un uomo politicamente di destra, che confonde le idee, candida Tranfaglia, poi De Magistris se porta nella cosa. No, un momento, parlato. Un bel attacco a Di Pietro mi piacerebbe adesso. Io diffido molto di Di Pietro e nell'articolo che ho scritto oggi ho detto che ha avuto questo successo che ha avuto anche per l'aiuto errato di candidati eccellenti, penso a Tranfaglia, Vattimo, che c'entravano loro con Di Pietro? Anch'io me lo domando, perché un pezzo di sinistra si stacca e va con Di Pietro? Ma questo è un altro segno della crisi della sinistra. Certamente ha ragione Valentino Parlato, è uno dei segni ai miei occhi più inquietanti della crisi della sinistra, appunto perché le posizioni di Di Pietro sono su un ampio raggio di argomenti schiettamente di destra, in senso proprio, cioè reazionarie, autoritarie e intolleranti. Nel disastro della cultura di sinistra, queste idee schiettamente di destra hanno il fascino dell'urlo dell'intransigentismo, che come sappiamo un deficit culturale assai grave, e perché Di Pietro è riuscito a dare il senso di una opposizione, come dire, vigorosa e muscolare. Ieri stesso, cioè a poche ore dalle proiezioni, mi è sembrato di vedere interessanti però differenze all'interno di quel partito, perché il capogruppo alla Camera Donadi ha avuto accenti, ma anche ha detto cose di sostanza molto molto diverse da quelle dette da Di Pietro. Per capirci, oggi che l'Italia dei Valori riscuote un grande successo, secondo me per l'Italia dei Valori incominciano i veri guai, cioè quelli legati alla democrazia interna. Questo partito è un partito di natura familistico autoritaria, vediamo se all'interno di quella formazione ci sarà. Ma sì, quelle cose lì poi esplodono sempre una pluralità di idee leader, prima o poi, certo. Dunque, Bechis, Casini è molto contento, mi saprebbe spiegare lei perché? Perché ha preso qualche voto in più dell'ultima volta, questo è l'unico motivo. E che cosa ne farà? Non ne farà assolutamente nulla. Può dire, apporta forse qualche eurodeputato in più, sono sempre qualche... E Emanuele Filiberto. Non so se è stato eletto, bisogna vedere. Beh, se, sicuramente. Sì. Se, se è lui principe, che porta in più. Il principe di Venezia. No, per Casini, si pone un problema strategico, diciamo, di difficile decifrazione, perché come fa? In questo momento non può andare né di qua né di là, quindi è costretto a restare in questa posizione intermedia, che gli dà un 6%, ma che è difficilmente spendibile sul piano politico, quindi lui deve soltanto guadagnare tempo, prendere tempo in attesa che qualcosa cambi. I veri temi che hanno deciso queste elezioni. Rino da Napoli ha una sua ipotesi. Rino? Buongiorno. Senta, volevo sottolineare ancora una volta il fenomeno del voto alla Lega. Il voto alla Lega, che trova la sua chiave di successo nella tensione sulla politica dell'immigrazione fatta negli ultimi tempi, dovrebbe suonare come un campanello d'allarme anche per la sinistra, anzi soprattutto per la sinistra, che invece risulta sempre più spezzettata e divisa su problemi che praticamente non riesco a capire quali siano. Ancora una volta Rifondazione Comunista e Vendola si dividono su progetto, sulla falce e mastello nel segno o meno, e questo è molto deprimente per la sinistra. Bene, grazie Rino. Bene, vorrei sulla scorta di una telefonata di Fabio da Prato, al quale non posso però dare per ragioni di tempo la parola. Fabio da Prato dice: l'astensionismo è l'unica vera variabile dei risultati di queste elezioni. Vorrei fare un piccolo monumento a Berlusconi, così si arrabbiano tutti quelli che pensano che io sia settario, fazioso, eccetera. Nel senso che abbiamo trattato male, abbiamo detto che il declino forse è iniziato, eccetera. Però voglio dire una cosa: noi siamo al 67%, è bestiale. Bestiale. Che ridi, Gloria? 67%, la media europea è 43%. Ma vi rendete conto, il paese dell'antipolitica, il abbiamo assorbito tutto. E, diciamo, gli xenofobi sono al governo e fanno le riforme costituzionali. E la gente va a votare come pazzi perché hanno votato meno, ma il 67%, la media europea è il 43%. È pazzesco, l'Italia è paese della virtù civica, paese dove tutti... ma è una cosa, non so, come commentate questo risultato? Vuol dire che questa, come dire, questa ristrutturazione, questa uscita dallo schema, diciamo, della vita dei partiti della Prima Repubblica, almeno un risultato paradossalmente l'ha dato: più politica, più partecipazione, più... Manconi. Intanto, breve, perché abbiamo poco intanto tempo. Io penso che, nonostante la politica, ai cittadini piace la politica e piace almeno come unico strumento a disposizione per far sentire in qualche modo la propria voce. Non si dimentichi che per le elezioni amministrative, in particolare quella dei sindaci, la percentuale di partecipazione è ancora assai più elevata. Certo. E io ritengo che a determinare questa mobilitazione intervengano anche fattori che sono in parte di natura legata così alla personalizzazione della politica, come dicevamo. Sotto questo profilo, il caso Noemi Letizia non è guardato con me con lo snobismo con cui lo guardano molti, è stato la manifestazione della irruzione del privato nella sfera pubblica, come di tutti i regimi democratici. E comunque, poi pesa comunque, un'altra cosa. Io ritengo che l'errore più grave fatto da Berlusconi, pensa un po', sia un altro, sia quel riferimento al 1.600.000 precari che, a detta del Premier, sarebbero coperti da ammortizzatori sociali. Questa bugia non ha certo spostato, fatto perdere voti al qualunque PDL, domanda io però... faccio. Però Manconi per male di Berlusconi. Beh, si presta, il ragazzo, no, si presta, in declino, ma si presta. Berlusconi si presterà a parlare. È un declino male, scintillante, guardate, di errori e di gaffe. Guardate, lo dico però senza, vince. Lo dico senza vince. Nessuna faziosità, sarà cominciato anche il declino. Ma vince, insomma, certo. È un po' di gratitudine gliela dobbiamo, perché con questa sua pazzia ha fatto della politica il teatro più curioso. Sì. In Europa non è così, gli altri non... Insomma, capito? Sono classi dirigenti che appaiono ossificate, lontane, no? L'Economist tutte le volte pesta, dice, ma non gli elettori quando... Ma insomma, non so, è strano. Europee 67%. Bechis, lei che sì, pensa? È vero, infatti il tema sarà quando non ci sarà più Berlusconi, dove finalmente probabilmente l'Italia diventa europea. Voglio vedere se Fini porterà come capo questa della passione... destra... a votare il 67%. Certo, questa europei. Passione politica è passione legata al referendum pro contro Berlusconi, non ce lo dobbiamo nascondere. Avevamo anche le amministrative che certamente avrà aiutato, perché quelle sono più sentite. C'erano alcuni sindaci di grandi città, le provinciali, sì, messe insieme alle europee, questo può aver aiutato. Però la passione politica in Italia c'è più che in altri paesi. Sarebbe strano ci fosse per un'Europa come la valuta inesistente. Parlato? Beh, sì. Lì si sentono voci casalinghe. Sì, non avevo sentito, sento poco bene, ma voglio dire, io questa, secondo me c'è una depoliticizzazione degli italiani. Gli italiani vanno, c'è un riflusso nel privato, insomma, questo. Però vanno a votare come pazzi. Ma come 25 pazzi, punti in più del 25 punti in più degli altri tieni paesi. Conto, scusa, tieni conto del voto alle amministrative, dove la partecipazione è alta, il voto alle comunali, alle provinciali e via di seguito, molte volte non è tanto per politica, ma per amicizie e combinazioni personali. Vabbè, pessimista sul futuro molto della democrazia. Folli, un suo commento su questo punto. Indubbiamente la polarizzazione intorno a Berlusconi in questi anni ha giovato molto alla partecipazione, insomma, ci si schiera pro o contro. Una volta ci si schierava pro o contro le grandi ideologie, adesso adesso ritorna Berlusconi. Poi c'è l'elemento comunque di una tradizione italiana di fortissima partecipazione che continua, c'è anche proprio un automatismo con cui gli italiani gradiscono andare a votare. Però non dimentichiamo che comunque anche noi stiamo scendendo lentamente, ma scendiamo i gradini, perché questa volta abbiamo un 7% in meno della volta precedente. Questo è anche un elemento che va considerato, anche se su scala europea siamo molto partecipi. Giulio da Verona. Buongiorno. È curioso sentire i commenti di Manconi e altri sui risultati del centrodestra. Insomma, mi sembra davvero, siamo davvero alle comiche, invece di fare autocritica guardano a, secondo me, un sostanziale successo del centrodestra in Italia e in Europa. Io volevo solo parlare della Lega, un secondo solo. La signora prima lanciava un campanello d'allarme sull'allarme xenofobia e preservatismo, comunque comportamento poco democratico della Lega. Noi siamo a Verona, governati dalla Lega, siamo molto contenti di essere governati da un sindaco leghista. Nelle città in cui governa la Lega non c'è nessun allarme democrazia, la Lega sta solo lanciando dei campanelli d'allarme su temi che coinvolgono la popolazione, cioè l'immigrazione e la delinquenza. Credo che su questo dovrebbero riflettere un po' tutti. Manconi? Oh, volevo segnalare una cosa che credo nessun articolo di giornale in questi giorni ha evidenziato. A queste elezioni hanno partecipato circa 100.000 comunitari, ovvero cittadini, per esempio i famosi romeni brutti, sporchi e cattivi, che hanno votato regolarmente in Italia, che so, per Berlusconi o per Franceschini. È un dato di novità estremamente interessante, anche perché voteranno per le elezioni amministrative, o hanno votato, scusate, per le elezioni amministrative. Questo dato, che è significativo perché sappiamo qual è l'immagine degli stranieri comunitari e dei romeni in particolare nella sensazione comune, però allude a una di quelle novità positive dell'Europa che forse finalmente dovremo iniziare a considerare in mezzo a tutte le critiche e alle contestazioni che possiamo fare. Bechis, se quella era la novità, avrà votato tutti per Di Pietro, visto che tutti gli altri hanno perso. Quindi. Per Di Pietro spero di no, perché io ricordo una sua vecchia dichiarazione in cui diceva che agli immigrati che delinquono bisogna tagliare gli attributi. Secondo me per Berlusconi in quota significativa, perché è evidentemente un modello interessante per una... Folli, ci sarà un rimpasto come in Francia? In questo momento non credo, insomma, a breve termine non credo. No, non lo so, le elezioni possono determinare. Noi non sappiamo quello che adesso può succedere, perché per adesso, diciamo, Bossi ha gestito questa sua forte affermazione. Io penso questo, in modo molto, molto dolce, molto prudente. Prudente. Però addirittura prudente prima Bossi, del responso delle urne, sì, perché ieri ha detto il popolo leghista non si muove se non per le grandi questioni, delle europee non gliene frega niente. Perché Bossi è un uomo, molto accorto, sa benissimo che questo dato contiene in sé un elemento di una qualche destabilizzazione, e allora lui vuole giustamente controllare questa cosa, vuole gestirla politicamente questa cosa a tu per tu con Berlusconi, che non significa che rinunci poi a far pesare sul tavolo la maggiore forza comunque complessiva della Lega, laddove potrà pesare, per esempio nel Veneto, per esempio nelle varie questioni di potere. Però naturalmente non ha nessun interesse ad aprire dei conflitti mediatici con Berlusconi, questo è chiaro. Quindi io penso che, ripeto quello che dicevo all'inizio, che io credo che la Lega peserà di più in questa coalizione, non c'è minimo dubbio. Bene, grazie a tutti, grazie a Folli, a Bechis, a Valentino Parlato, Luigi Manconi, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Peter Bescapè, Lina GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Domani discutiamo dei risultati interni, quelli amministrativi, che avranno un valore, diciamo, politico e psicologico forse anche maggiore. Baci.